situazione, per me la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per il sole breve cronaca del primo tempo con voi Cagliari, sei in ascolto Cagliari. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Subito, facciamo paura, sono bambini questi, cazzo! Mi piace questa battuta di Mexes, io voglio tornarci sopra per farci due chiacchiere. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Fabio Cantidoni in regia, due chiacchiere con voi, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Dai, sono bambini questi, gli facciamo paura, disse Mexes nel tunnel dello stadio di Eindhoven. Però anche i bambini corrono e giocano a pallone, strani e interessanti. Secondo me, ma a prescindere da questa partita, gli animali calcistici, quegli animali calcistici che sono le squadre olandesi, praticamente delle squadre primavera con un paio di fuori quota. Così è il PSV, così è l'Ajax, così è il calcio olandese. Voglio parlarne con un signore che è stato passato, è vincentissimo e presente del Milan, Filippo Galli, direttore del settore giovanile rossonero e studioso del calcio olandese, perché questo lo so. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao. Mi racconti, vabbè, PSV, Mexes, quella frase, eccetera, poi giochi e questi avranno la carta d'identità, non va in campo e neanche l'estratto conto, dico sempre io. Questi corrono, giocano, è chiaro che non sono una squadra esperta, però sono una squadra estremamente interessante. Ma sì, fa parte un po' della cultura del calcio olandese, nel senso che per loro, diciamo, la tuta è più facile comunque portare talenti giovani alla prima squadra, perché hanno molte meno pressioni, però devo dire che hanno una cultura di gioco improntata sempre sulla costruzione del gioco da dietro, quindi con la partecipazione anche del portiere, spesso anche quasi sempre il loro portiere è un portiere che partecipa al gioco, un giocatore aggiunto, e poi quello che mi ha colpito, io non sono stato al PSV Eindhoven ma sono stato all'Ajax come in altri settori giovanili, c'è davvero questa coerenza e continuità di principi che va dalle squadre dei Puccini fino alla prima squadra, quindi è chiaro che se ha un ragazzo che fa un percorso di crescita e i principi di gioco vengono continuamente e continuamente, dicevo, trasmessi, e il gioco forza arrivi poi ad avere una riproposizione sul campo che è quasi automatica, no? Non sono partiti, hanno fatto 20-25 minuti veramente di grande calcio, dove si giocava a un tocco, due tocchi, avevano idee ben precise su dove andare ad attaccare, su come attaccarci, è chiaro che poi hanno pagato qualcosa dal punto di vista dell'esperienza, è venuta fuori la maggiore capacità di gestire certi momenti di una squadra come il Milan. Certo, come ha detto Mexes, in fondo sono bambini, possiamo in qualche modo spaventarli, il Milan c'è in parte riuscito, c'è chi dice, sono un paio di temi che ieri nella chiacchierata con Paolo Condò sono rimasti sul tappeto che sono interessanti. C'è chi dice, Paolo Condò ad esempio, io confermo, che in altri tempi il Milan si sarebbe portato sull'aereo Maher. Beh, ripeto, i giocatori sono tanti della Eindhoven, sono giovani e hanno questa cultura del gioco, di essere sempre presenti nel gioco e di essere a disposizione della squadra anche quando invece la palla ce l'hanno gli altri. Io credo che però anche qui da noi almeno stiamo andando in questa direzione a livello di settore giovanile, ci vuole tempo perché è ovvio che ci voglia del tempo per cambiare certe convinzioni in tutto il sistema, no? Negli allenatori, ma credo davvero che sia finalmente così intrapresa la strada giusta. Il sentiero è questo. Sì. Un altro tema, Phil, ieri si parlava con Condò. Allora, il Milan pare stia cercando Matri, pare stia cercando un altro attaccante, ma perché con quattro attaccanti giovani di grande talento fisico e tecnico, due già consacrati Balotelli e Sharawi, gli altri Niang e il tuo Petagna, perché esce da quel settore giovanile che tu dirigi, più Pazzini che sta per rientrare, a guardare questo attacco il Milan sarebbe a posto per 5 anni. Non so, queste sono valutazioni ovviamente che fanno il dottor Gagliani, il commissario Allegri e tutto lo staff tecnico, dipende appunto anche forse dalle situazioni di fatto di Pazzini, forse ci vorrà qualche tempo in più o comunque non si ha la certezza del suo rientro, e quindi se il Milan, come speriamo tutti, non solo il milanisti, andrà a fare la Champions League, è chiaro che deve presentarsi in una competizione così importante con un attacco adeguato e non solo. Però Petagna con i grandi ci sta già, mi sembra fisico, mi sembra buoni numeri e personalità. No, personalità, si è messo completamente a disposizione, come giusto che sia, dell'allenatore, l'atteggiamento è quello giusto, ho visto alcuni degli allenamenti, lavora, come dicevo prima, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso, quindi sta diventando pian piano un giocatore completo, un giocatore vero che può appunto, come dicevi tu, dire la sua, ovviamente magari non con una concerta continuità nella prima squadra, ma insomma sta lavorando per poter dare continuità anche alle sue prestazioni. Stiamo lavorando per voi, questo è il senso. Work in progress. Senti Filippo, altro tema che mi incuriosisce molto, quello dei grandi club che vendono i giovani in provincia e poi li ricomprano per molti milioni, Destro, Giovinco, la lista è lunga, forse si aggiungerà anche Astori che esce dal tuo settore giovanile, che è andato a Cagliari, ora lo vuole il Napoli, lo vuole. Ho letto prima un flash di agenzia, telefonata Gagliani Cellino, magari torna. Ma guarda, io credo che questo sia l'annoso problema della struttura dei nostri campionati, dei nostri regolamenti, del fatto che non si possa avere, io parlo del Milan o comunque dei grandi club, la possibilità poi di terminare lo sviluppo della crescita di un giocatore del settore giovanile attraverso un'esperienza in una squadra o in una seconda squadra o comunque in un'altra squadra controllata dal club, con la stessa filosofia, con lo stesso metodologia di lavoro. Cosa permetterebbe magari ad alcuni giocatori che invece poi si è costretti anche a perdere, perché comunque così vanno le cose, a crescerli e a tenerli monitorati sotto controllo, riducendo anche di molto quelli che sono i costi, invece che, perché oggi dai fuori un giocatore, lo dai in Lega Pro, poi in Serie B devi pagare il contratto, devi pagare la valorizzazione, insomma tutta una serie veramente di meccanismi che non aiutano, a mio avviso, il calcio alla fine, il calcio in generale, il movimento del calcio italiano. Sì, ma il movimento dello sport italiano, perché anche gli altri sport, come sai bene, hanno lo stesso problema, dalla pallacanestro alla pallavolo, tutti gli sport di squadra hanno lo stesso problema, cioè quello di trovare un bacino in cui far nuotare i giovani, che sia a livello seniores, però. Ci sono sempre degli interessi di parte, ogni lega ha il proprio interesse da difendere, quindi non si trova mai la quadratura, non si trova mai un accordo che possa in qualche modo garantire i diritti di tutti. Insomma. Sì, io regalo a Claudio della provincia di Milano la possibilità di fare una domanda a Filippo Galli, cosa che non credo le sia mai successa, no Claudio? No, mai successo, prima volta, anche sono stato un... Ma l'ha visto giocare? Sì, io sono classe 59... Per quel Milan di Arrigo, quello di Galli, Sassotti, Maldini, quello lì era il Milan che ci è rimasto nel cuore. Sì. Infatti concordo a quello che dice Filippo, in linea generale, soprattutto per la crescita dei giovani. Diciamo che finalmente sono stato contento che abbia preso posizione Allegri sul fatto di non prendere un altro giocatore e di valorizzare Petagna, perché chiaramente si vuole fare veramente un passo verso i giovani. sennò mi diventa difficile onestamente per me, che ho visto quel Milan lì, vedere in squadra giocatori come Constant, ma non perché secondo me non sono assolutamente da Milan. Sì. E infatti non dormirei sonni tranquilli per la partita di ritorno, perché pur vero che Mexes non c'ha, come diceva Arrigo, gli occhi spiritati, però insomma questi pedalano, questi camminano. Questi pedalano, e la qualificazione è sul prato di San Siro, è da conquistare. Sì, no, sarà difficile ovviamente, è chiaro, non dobbiamo basarci soltanto sul pareggio ottenuto con gol lì, che ad oggi ci darebbe la qualificazione. Sarà una partita difficile, però ci sarà una settimana di lavoro, li abbiamo conosciuti meglio sul campo, avremo il nostro pubblico e avremo il nostro stadio, che sicuramente poi si trascinerà al passaggio del turno. E avrete Balotelli con la voglia di fare gol. Altro discorso, esatto. A lungo dibattuto ieri, secondo me, io sto con Allegri, Balotelli agli arbitri, Balotelli alle liti, Balotelli ai cartellini, Balotelli ai bisticci con il pubblico. Probabilmente, dicevo ieri, è il suo modo di vivere la partita, il suo modo di vivere l'agonismo, come era un po' quello di Ibrahimovic, no Filippo? Solo sì, che Ibrahimovic è un po' più sgamato, i cartellini ne prendeva meno. Balotelli è ancora giovane, quindi non riesce ancora a gestirsi forse in certe situazioni, però insomma la sua capacità realizzativa è fuori di dubbio, è un giocatore che appunto quando ha l'occasione fa gol, come ha dimostrato lo scorso anno, vedrete che anche quest'anno sia nelle varie competizioni ci darà tanto, ci darà molto. Sì, io di dubbi ne ho pochi, lo dichiaro sempre, Balotelli secondo me è già un fuoriclasse, può diventare uno dei più bravi giocatori del mondo. Per chiudere, Filippo, come va il tuo dipendente Pippo Inzaghi? Va molto bene, è cresciuto molto come allenatore, consapevole dei suoi mezzi, delle sue capacità, sta guidando il suo staff con molta più coscienza, tecnica rispetto allo scorso anno, e ovviamente ha a disposizione un gruppo importante anche dal punto di vista dei giocatori. Insomma, noi pensiamo positivo, come si suol dire, chiaro che poi è sempre il campo che dà la risposta. Però io credo che Pippo abbia davvero le qualità per aiutarci a far crescere i nostri giocatori e portarli poi in prima squadra. Chissà che nervoso gli viene in panchina, eh? Secondo me dopo ogni partita va a correre 3 ore. Sì, deve scaricare. Però va bene così, è un allenatore maniacale, è un osso, come diciamo noi in gergo. Lo era da giocatore, immagino da allenatore. Va bene così. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie a te, ciao a tutti, ciao, grazie a tutti, ciao. Al radio spettatore. Ascolti. Grazie a Filippo Galli, 800240024, adesso tocca a voi. Dopo la viabilità in onda tra poco e dopo che avremo parlato con Gianni da Modena, le comiche estive, ce ne sono parecchie. Gianni lo sentiamo subito, facciamo così, buongiorno. Dottor Genta, buongiorno, un saluto a lei e ai 3000 tifosi viola che stanno raggiungendo Zurigo. Sì, stanno raggiungendo Zurigo in massa per questa prima esibizione europea della viola. Pensa te cosa succede se andiamo avanti ancora, quindi vedi te. Beh, la Soppers è già una squadra di buone tradizioni, di buon nome, insomma, fa parte del Gotha Svizzera, un impegno interessante. Certo, dottor Genta, io volevo chiederle una cosa, siccome quell'ingrato di Jovetic ha parlato della Fiorentina... Core ingrato, sì. Sì. Io, avendo visto il Manchester, cioè l'ultima partita di campionato che ha fatto, secondo lei quante possibilità Jovetic di farsi tanta di quella panchina della tribuna, che è quello poi che gli auguriamo noi tutti i tifosi fiorentini? Perché fate così cattivi? Perché lui leggi di mercato, Gianni, credo che insomma la cessione di Jovetic fosse stata messa in preventivo da tutti i tifosi viola. A me è un giocatore che piace moltissimo, giocatore di enorme talento, e credo che non farà poi così tanta panchina al Manchester City, che ho visto molto bene nella prima stagionale. C'è stata anche la seconda ieri sera, la seconda stagionale del Chelsea, ma ve la racconto tra poco, dopo il traffico, al capitolo comiche. Vi aspetto, 800240024. 0024. Vedo belli allegri, eh? Tutti convocati. calciavita e anche più giù, ma farò finta che è tutto ok, sembrava finita e invece tu mi hai detto alzati che ancora ci sei, guarda mi vedi son sempre qui, io sono il toro e sono il matador, se non c'è sangue non c'è business, perché chi paga vuole l'anima. Il solito spazio per Turan, prova ad accelerare, palla al piede, va per il cross e c'è gol del pareggio della Juventus, un gol di Maresca che poi va a animare le corna del toro a mo' di scherma. Oh, loco, hai quel fuoco, hai quel sole, le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Se Maresca viene al Torino cambio squadra, cambiare squadra è pressoché impossibile, geneticamente impossibile cambiare squadra, e quindi confido nella saggezza dei nostri dirigenti che hanno operato molto bene sul mercato e che credo che di Maresca in Italia, con tutto rispetto, ce ne sono tanti altri che però non hanno fatto così. Se il giocatore a noi ci può dare delle situazioni tattiche importanti e ci può fare quel salto di qualità, sicuramente noi valuteremo non solo Maresca ma altri giocatori che sostanzialmente poi alla fine possono darci una mano. Il ragazzo eventualmente non avrebbe paura a confrontarsi e mettersi in gioco e venire al Toro. Non lo so, secondo me è capitolo barzellette estive. Abbiamo sentito per ultimo il direttore sportivo del Torino Petrali, prima la vecchia telecronaca, vecchissima, 2002, sono passate tre ere geologiche calcisticamente parlando, quel 2-2 nel derby, 2-2 con gol del pareggio segnato da Maresca e quel famoso gesto delle corna del toro che ha mimato anche Chiambretti, che avete sentito prima. Che non vuole, insieme ad altri tifosi del Torino, l'arrivo del Torello Maresca in maglia granata. Vabbè, mi sembra una storia caduta in prescrizione, ma poi è un pezzo tutto nostro questo dei tifosi al potere. Eravamo abituati a quelli delle curve, è un pezzo molto perverso che non sopporto, devo dire la verità. Eravamo abituati ai tifosi delle curve, adesso anche quelli VIP. Se arriva Maresca cambio squadra, dichiara Chiambretti. In un mondo come quello del calcio, avvezzo, abituato al mestiere più antico del mondo, mi sembra tanta roba questa distanza temporale e questo tra quel gesto delle corna e l'arrivo presunto di Maresca, insomma, mi sembra un po' bizzarro. D'altra parte è anche vero che ci sono dei gesti che ti segnano la vita o la carriera. Non a caso proprio ora è arrivato un messaggio di un tifoso dell'Inter che dice: non posso dimenticare quella maglia buttata per terra, non ho nessun rimpianto per Balotelli, eccetera eccetera eccetera. Allora, 800 24 00 24, ma di barzellette ce n'è altre, eh. Ad esempio quella delle fidanzate grafomani di Roma. Perché? Dopo la fidanzata di Osvaldo e la querella, sapete, inutile starla a ribadire, tanto Osvaldo è già andato, si mette quella di Lamela. Il giovane Eric, che sta per essere ceduto al Tottenham, e questo non è un mistero, ha twittato che gran farsa. A proposito della presentazione della squadra ieri all'Olimpico, tutti allineati sotto la curva, che non può dimenticare, a proposito di momenti indimenticabili, in questo caso per i romanisti in senso negativo, l'ultima sconfitta nel derby di Coppa Italia. Lamela, tra fischi e applausi che hanno contraddistinto la presentazione della Roma, è stato uno dei più applauditi. La sua fidanzatina ha twittato che gran farsa, poi ha fatto subito sparire il tweet. Però ormai la parola non torna indietro. C'è anche la fidanzata di Caleon, che a Napoli ha twittato su quanto sia difficile guidare, pensate un po', poi si è scusata. Scusate, non volevo offendere nessuno, ma guidare qui è molto difficile. Bale, altra barzelletta, perché quei soldi sono una barzelletta. Ripeto, io non voglio mai discutere il valore di mercato dei giocatori, perché queste sono le leggi di mercato, però rischiano di distruggere Gareth Bale quei 109 milioni o 99 milioni, comunque tantissima roba. A proposito, c'è Radio Cope che oggi ha annunciato che domani sarà ufficiale, Bale e Real si sposano. Ultima barzelletta, poi tocca a voi. Barzelletta agonistica in questo caso. Vi ho detto prima dell'anticipo di Premier League ieri sera, anticipo della terza giornata di campionato, perché poi il Chelsea sarà impegnato nella Supercoppa europea. Ebbene, ieri nuova partita a Stamford Bridge, dopo quella del delirio di amore nei confronti di Mourinho all'esordio di sabato, di domenica. Ebbene, ieri il Chelsea di nuovo in campo in Premier League contro l'Aston Villa. Che succede? Chelsea in vantaggio, Aston Villa che rimonta 1-1 e sta giocando davvero molto bene. A quel punto Ivanovic, numero 2 del Chelsea, rifila una gomitatona a un avversario. L'arbitro non ha il cuore di buttarlo fuori. Forse avrà anche pensato in quel momento: oddio, se lo caccio cosa mi dice Mourinho? Ebbene, poco dopo, gol di Ivanovic di testa in offside, netto fuori gioco. E dunque Mourinho mette il primo marchio, pianta la prima banderia sul prato della nuova era, naturalmente, sul prato del Chelsea. 8-0-0-24-0-0-24, poi ne ho anche delle altre. Poi ve ne racconto altre. Ma chi è il follower della fidanzata di Lamela? Domanda Sergio da Bergamo. Non io, non frequento Twitter, ma ovviamente queste cose fanno immediatamente, istantaneamente il giro del mondo. Enzo Bologna, buongiorno. Buongiorno. Io sono meno telematico di tanti altri, anche di lei, Genta, però oggi il nostro spazio ce lo dobbiamo prendere, perché noi siamo tifosi viola e stasera si gioca a Zurigo. Squadra difficile, le dico e chiedo il suo parere a questo, ma più che difficile anche un po' di presagi poco fortunati, perché già con queste cavallette noi incontrammo nel 97-98, ci buttarono fuori con storie di partite prese a tavolino perché il presidente volle fare una partita a Salerno, insomma tutta storia così. E quindi loro sono più avanti in campionato, la Fiorentina non l'ho vista tanto bene ultimamente, e specialmente dietro non ci un portiere, facciamo fatica a vedere qual è, insomma. Io credo che la Fiorentina di un portiere abbia bisogno, sicuramente. E poi però divagavo con lei su quest'altra faccenda che a lei interessa sicuramente, credo anche forse più della Fiorentina, ma questo è un fatto suo. E come mai alla vigilia dell'Europeo della Nazionale di pallacanestro cominciamo a perdere i pezzi così, quasi tutti? E che figura faremo? Grazie. E che figura faremo? Grazie a lei, Enzo da Bologna. Che figura faremo? Insomma, siamo partiti con grandissimo ottimismo, no? Siamo partiti sull'onda di una lunghissima striscia di vittorie che si è interrotta la settimana scorsa con quel torneo in Belgio in cui abbiamo perso 3 volte su 3 contro avversari non irresistibili come il Belgio, Israele e la Polonia. Poi abbiamo perso Bargnani, adesso stiamo lentamente perdendo un po' di fiducia in questa squadra, in questa spedizione. Doveva essere la nazionale della completa resurrezione, il gruppo cementato l'anno scorso, il ritorno di Bargnani. Bargnani non ci sarà, come sappiamo, vittima della polmonite. La squadra sembra, io voglio ancora credere che sia un discorso di preparazione, di carichi, eccetera eccetera, però quelle frasi di Pianigiani, questo è il nostro valore, di più non possiamo fare, la Polonia è più forte di noi, mi mettono un po' di anzi parecchia preoccupazione alla vigilia dell'Europeo. La buona notizia è invece, se ne è parlato per tutta estate e molti di voi avevano chiesto lumi sulla vicenda, non ce n'erano, ora ci sono lumi televisivi. L'Europeo sarà trasmesso sulla Rai Sport, non solo le partite dell'Italia ma un sacco di pallacanestro per questo campionato europeo di Slovenia. 37 partite in diretta previste dalla Rai. 800 24 00 24, il numero verde. Mi domando, ma non è meglio avere un Maresca che uno che rifiuta il trasferimento? Meglio il Maresca, scrive Saverio da Somma Vesuviana, ma io insomma sono perplesso di fronte all'eccessivo peso che viene dato Ai tifosi più o meno illustri, è una storia come ricordiamo, non nuova, e Stankovic alla Juventus, insomma abbiamo diversi esempi di questo tipo. In nessun paese al mondo la tifoseria è così condizionante nei confronti delle scelte societarie, e questo è un meccanismo, è qualcosa di molto perverso del nostro calcio. Luca su Twitter, a proposito di Cinguetti, hanno ragione i tifosi, con tutti i giocatori che ci sono bisogna pescare proprio uno che ti ha preso platealmente in giro. Insomma, platealmente in giro, certo che il gesto delle corna ha fatto il giro del mondo ed è, credo, indimenticabile per i tifosi del Torino. Però, insomma, se il club decide di prendere Maresca, avrà le sue ragioni, avrà fatto anche i conti con il passato e con tutto ciò che ne può derivare. Massimo, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non, in realtà non sono di Torino, ma sono di Milano, ma è lo stesso, l'argomento era il Torino, anche sì. Se non sono tifoso granata. Però capisco benissimo Chiambretti, nel senso che è vero, come dice lei, anche che sono cose ormai passate in giudicato, però il calcio vive anche di questo. Se continuiamo a normalizzarlo, poi non ci resta più niente. Effettivamente penso che ci siano altri centrocampisti in Italia allo stesso livello di Maresca, che senso ha andare a prendere proprio quello? Cioè, sì, però questo, mi perdoni Massimo, però questo bisogna chiederlo, è una domanda da girare ai dirigenti del Torino, no? Che conoscono, devono conoscere, conosceranno sicuramente la storia e il passato del Toro, conosceranno benissimo quello che quell'esultanza di Maresca. Se però decidono di prendere un giocatore, non vedo perché ci debba essere questa presa di potere da parte di tifosi, che tutto sommato sono quelli che vanno allo stadio. A uno non va Maresca, non ci va. Non va allo stadio. Adesso presa di potere mi sembra eccessivo. Chiambretti ha espresso il suo punto di vista. E buonanotte. Sì. Tanto non credo che comunque non cambia la squadra, anche se cambiasse squadra penso che non accada l'apocalisse. Però almeno che si sia consentito di dissentire da questa normalizzazione del calcio, perché sì. Qui ormai rimane solo business e basta. Di sport c'è rimasto poco. Se ci togliamo anche queste cose, queste prese in giro, fra virgolette, del derby, che sono secondo me sacrosante, però anche ricordiamoci di che cosa è avvenuto prima, se no, ripeto, non resta più niente del calcio. No, ma infatti quel gesto di Maresca fu tutt'altro che normalizzante, no? Però quello che dico è che non al di là di Chiambretti, quello che dico è che l'opinione pubblica dei tifosi non può nello sport condizionare le scelte della dirigenza. In Italia accade, non so se succederà anche in questo caso. Paolo Verona, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo parlare del professor Balotelli. Professor Balotelli? Sì, quello che ci permette di, su giornale, cos'è, Newsweek, mi sembra, Sports Illustrated. Sì, parlando della mia città, dicendo che è la città più razzista d'Italia. Visto che ha giocato una sola volta e ha giocato contro il Chievo, mi sembra che parlasse dei tifosi del Chievo. Mai sentito uno che parlasse dei tifosi del Chievo che sono razzisti? Sì, la tifoseria del Chievo è particolarmente insomma pacifica, no? Educata da questo punto di vista, in generale, in valore assoluto. Non dimentico però che, ora non voglio farne un discorso così generale, però non possiamo dimenticare quel precedente di Balotelli a Verona. È vero, era contro il Chievo, è vero che si prese i suoi bu, ed è vero che reagì in maniera eccitato dalla partita e dal momento, reagì sopra le righe come dichiarazioni. Probabilmente l'ha fatto anche in questa circostanza, però Paolo non serve molto, no, per andare a scoprire un po' le carte. Sabato pomeriggio c'era bisogno proprio di incendiare la bottiglia. Non c'era bisogno, ma infatti io dico che i giocatori devono fare i giocatori. Secondo me sono inaccettabili certe prese di posizione. Lasciare il campo non se ne parla nemmeno, ma sono inaccettabili anche insomma reazioni alle provocazioni da parte del pubblico. È chiaro che poi chi ha il potere di decidere deve decidere, come è stato fatto nel caso della Lazio e della Roma, e come sarà fatto certamente più volte nel corso di questo campionato. 800240024, vi lascio il numero verde, c'è la borsa e ci sentiamo dopo. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva che, credetemi, lor signori, è agghiacciante. convocati. 800 24 00 24, siete sempre convocati per intervenire, dire quello che vi pare su argomenti sportivi, qualsivoglia sport, anche il tennis con la Sharapova, Sugarpova o come la volete chiamare, che in ogni caso non ci saranno dopo tutta questa cagnara che è stata fatta sul cambio di nome che era stato chiesto dalla bellissima Maria per giocare gli US Open. Adesso gli hanno detto di no per quanto riguarda il cambio del nome, e poi lei ha detto di no per quanto riguarda la partecipazione al torneo, non per questa ragione ma per un malanno alla spalla destra. Si consolerà con le caramelle. 800 24 00 24, il numero verde. Intanto domani, salvo sorpresa, appunto dovrebbe essere il giorno dello sbarco di Bale su un aereo tutto d'oro a Madrid e della partenza di Lamela per il Tottenham. Il fratello di Lamela ha detto: sono più che certo che Eric finirà a Londra. 800 24 00 24, Roberto da Roma. Pronto? Pronto? Dica. Ah sì, buongiorno. Senta, volevo intervenire un attimino per quanto riguardava il discorso del razzismo negli stati, eccetera. Questo perché vorrei sapere, cioè, io per quanto ho una certa età, non credo che il popolo italiano nel generale sia razzista, se non qualche imbecille, che comunque dovunque si vada qualche imbecille si trova sempre. Sì. Soprattutto quando si spostano grandi masse di persone, come accade nel calcio, no? Soprattutto anche quando uno nella foga del insomma, io mi ricordo spesso e volentieri, non so se ancora si usi oggi, ma ai poveri arbitri gli si dicevano le parole più strane, cornuto, figlio di qua, figlio di là, parolacce, eccetera. A quel punto anche quello era un razzismo, se vogliamo. Queste manifestazioni nei confronti, razzismo, insulto, insulto certamente, gesto di enorme maleducazione, ma ripeto, però Roberto, mi consente di non... Il fatto di fischiare o di fare il volo, eccetera, a chi sta portando la palla, a chi sta segnando, io ricordo che si faceva anche prima a tutti quanti, non solo a chi è di colore o a chi è bianco, rosso, verde o giallo. Probabilmente c'è qualcuno che lo fa anche in ragione di questa particolarità, però, francamente da questo a farne un sembra che qui ovunque si vada tutti razzisti, tutti di no, ma tutti razzisti, però certamente non possiamo far finta di non sentire o comunque di interpretare in altra maniera gli ululati, quegli che sentiamo risuonare negli stadi italiani quando un giocatore di colore ha la palla. Non possiamo dire: ah, ma forse sì, forse no. È evidente che ha uno sfondo, molto più vigliacco, sì, no? Però quel verso. Che anche da parte dei giocatori, questa esaltazione dei media, del razzismo, eccetera, loro non lo sentono. Cioè, diciamo in questo caso, giustamente, sì, me lo sentono ancora di più, cioè quel buco, quell'uovo, eccetera, che normalmente in una fase non così pesante sarebbe stato accettato e comunque non avrebbe dato seguito a problemi di questo tipo, loro si sentono subito colpiti da questo fatto perché sono neri, ma sì, io non sono a ripetere, potranno essere una minoranza ma estremamente minima che può avere questo atteggiamento ma però la minoranza non è, anche minima, non è accettabile. Piuttosto bisognerà isolare quella minoranza minima e speriamo che sia così. Però se prima venivano tollerati e si faceva silenzio di fronte a certe cose, l'errore era prima, non è adesso. Detto questo, non sono contrario alle crociate, ripeto, i giocatori facciano i giocatori, c'è un pericolo che per me è sempre presente, che si lega un po' al discorso che facevo prima, cioè del condizionamento dei tifosi nei confronti delle scelte dei dirigenti, che secondo me è follia tipicamente italiana. Non vorrei che venisse dato ancora una volta e in maniera anche in questo caso perversa eccessivo potere ai tifosi stessi, come cioè non si fornisse alla tifoseria organizzata uno strumento di pressione ulteriore. Questo lo scopriremo. Mi auguro però che comunque ognuno faccia il suo mestiere, i tifosi tifando in maniera per quanto possibile civile, vabbè, ma questa è una banalità enorme. giocatori giocando senza battibeccare con il pubblico, senza litigare con il pubblico, senza gesti eclatanti, perché questo è, ma a mio parere, sbagliato. Poi non raccontiamoci, su un punto l'ascoltatore ha ragione, insomma i nostri stadi sono infrequentabili mica da adesso, perché a me fa morire da ridere, un giorno ci faccio anche una puntata, perché tutti dicono quella famosa frase: è ora che allo stadio tornino le famiglie. Ma siete mai stati allo, ma da quanto tempo andate allo stadio? Cioè, vi ricordate come erano gli stadi nel... Io mi ricordo dalla metà degli anni 70 in poi, anni 70, anni 80, anni 90, ma agli stadi italiani ci andavano le famiglie, i matti portavano i bambini agli stadi, perché lì la violenza era 10 volte quella che è adesso, intorno allo stadio, dentro allo stadio, con le cariche delle polizie nelle curve. Ma vi ricordate o no? O facciamo finta di niente e cominciamo a dire: ah no, ma devono tornare allo stadio le famiglie, ma quando mai ci sono state? Allora, io sono contento di essere tornato da qualche giorno e non vedevo l'ora di parlare con il mio amico Leo, al secolo Leo Turrini, inviato di QS e scrittore di Formula 1. Ciao Leo. Beh, direi che è un piacere reciproco, eh. Io so che tu mi hai telefonato per chiedermi cosa penso del possibile ritorno di Eto'o all'Inter. Balla clamorosa. Io da interista sono favorevolissimo. Ma va, dai, ma non dire sciocchezze. Ma perché? Sono pronto. Ma perché? Ma basta il passato, Leo, ma basta. No, ormai noi nerazzurri viviamo di memorie, poi figurati adesso che stiamo per diventare l'Indo-Inter, saremo ancora di più legati ai ricordi, hai capito? Quindi ben venga il nostro vecchio idolo Samuel Eto'o. Ho chiamato naturalmente per questo e per prenderti in giro, no? Anche perché mi aspetto una stagione estremamente divertente tra il neoproprietario Toir e il dipendente Moratti. Come lo vedi Moratti dipendente? Io non benissimo. Allora, tu sai che io sono amico personale di Massimo Moratti, quindi conosco direttamente il travaglio con il quale, sono serio, sì, sta affrontando questa trattativa. Sappiamo che il mondo va in una certa direzione, in Europa non si contano i club che sono controllati da magnati che, diciamo così, nulla hanno in comune con la storia, la tradizione della squadra di calcio della quale sono diventati proprietari. Io sono uno di quelli all'antica, mi dispiacerebbe moltissimo invece se accadesse, non perché l'Inter debba andare a giocare le gare casalinghe a Giacarta, ma perché sono rimasto ancorato all'idea che la squadra di calcio sia un patrimonio di emozioni, se me lo concedi, anche di cultura, che è più forte di qualunque conto corrente. C'è chi scrive: grande Leo, Indo Inter, mitico, l'hai inventata tu, adesso è già diventato un neologismo. Non l'ho inventata io, però portare la Juventus e il Milan a giocare la partita sul campo dell'Inter a Giacarta non sarebbe male. È una prospettiva che mi diverte. È un po' fuori mano Giacarta, però vabbè, si può organizzare con una... come si dice, è diventato piccolo, no? Sì. Quindi che vengano a Giacarta a sfidarci. Senti, adesso voglio parlare con te di un'altra bufala che secondo me è quella di Raikkonen alla Ferrari. Però prima, a proposito di memoria, prima dicevo una cosa: tu te li ricordi gli stadi degli anni 70 e 80? C'erano le famiglie allora? No, ti ho sentito. Allora, io devo dire una cosa: fino a tutti gli anni 60, questo lo dico per conoscenza diretta perché ero bambino, mio padre mi portava a Bologna a vedere il Milan di Rivera e l'Inter di Mazzola e Facchetti, e allora era vero. Allora, si riusciva in Italia, sì. Come hai giustamente ricordato tu, cambiò tutto, credo anche per effetto delle tensioni sociali dell'epoca, intorno a metà degli anni 70. Io una volta, era il 1980-79, proprio un Bologna-Inter, la gloriosa Inter di Bersellini e Beccalossi, e rimasi coinvolto da ragazzo in un incidente all'interno dello stadio, insomma volavano chiavi inglesi, lì era già cambiato tutto. Se tu dici che sono alcuni decenni che lo stadio per famiglie in Italia è un'utopia, hai perfettamente ragione. Poi il passo successivo è un altro, chiunque va oggi in Inghilterra o anche in altre nazioni vede che invece è vero, è possibile, sì, certo, andare allo stadio con i bambini. Infatti sto parlando del nostro problema interno, è chiaro, questo è un fatto storico e sociale, no? Negli anni 70 si sono politicizzate le curve, si sono portati dentro agli stadi le tensioni che c'erano fuori, però quello che ti dico, dagli anni 70, a metà degli anni 70 in poi, lo stadio era infrequentabile, guarda, ai campi di battaglia veri. La prima grande tragedia da stadio, cioè l'omicidio del tifoso Papparelli in un derby Roma-Lazio, risale proprio al 1979-1980, quindi parliamo addirittura di due generazioni fa, per cui è una cosa che ci tiriamo dietro, che non è mai stata affrontata davvero con la volontà di risolvere la questione, perché tu ricordi l'Inghilterra degli hooligans, ci sono riusciti benissimo. Ma certo, hanno fatto le cose abbastanza seriamente, che dici? Senti Leo, allora abbiamo il traffico, macchine, ma per chi è in viaggio, traffico sulle autostrade, poi andiamo al traffico di Spa e soprattutto alla questione, ma il biondino, Kimi Raikkonen intorno alla Ferrari, secondo me no. Traffico. Senza aver fatto tutto per trattenerlo, era il momento giusto per dire stop, oppure si poteva fare qualcos'altro in più? Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Tutti convocati. Allora, Leo Turrini, Kimi e la Rossa, ritorno di fiamma? Ma noi siamo partiti da Eto'o e arriviamo a un altro che potrebbe tornare. È un'operazione da fare, come il taglio dell'IVA e l'abolizione dell'IMU, e mi spiego meglio. Allora, Raikkonen in Lotus non lo pagano perché hanno delle difficoltà notorie proprio per la gestione del team. Lui si è intelligentemente offerto alla Ferrari, rifiutando di andare alla Red Bull al posto di Webber. È la Ferrari che deve decidere. Io penso, se vuoi il mio parere, che non realizzare questa operazione sarebbe un autogol degno di Comunardo Nicolai, che tu sai chi era, certo, poi spiegherai nella tua trasmissione ai più giovani, no? Il principe delle autoreti, sì, del Cagliari di Gigi Riva. Perché? Perché Raikkonen va forte, perché la Ferrari ha una relazione adesso difficile con Fernando Alonso, che non nasconde la sua frustrazione, legittima peraltro, dopo anni di assalti al titolo mondiale mai realizzati, perché bisogna finirla. La Ferrari è l'opposto del famoso detersivo, ti ricordi la pubblicità? Signora, lei paga un fustino, gliene certo, due, no? Certo. Sono anni che la Ferrari paga due piloti e poi in pista ne schiera uno solo. Anche se io ti sto per dire una cattiveria tremenda, ma che farà, pure, perché che farà arrabbiare come iene. Io per Carlo Genza sono disposto a qualunque cosa, come dice Benigni, mi metterei in nudo, però è fuori discussione che la Ferrari con Massa sono quattro anni. Allora, posso dire una cattiveria terribile per tutti i tifosi della Ferrari? Io ho la sensazione che il valore della macchina sia quello di Massa, cioè che il valore della Ferrari sia il piazzamento di Felipe Massa. No, ma io sono d'accordo su questo tipo di analisi, però teniamo presente una cosa, che se tu avessi avuto negli ultimi anni, accanto ad Alonso, che è un campione, un altro campione, non voglio dire che il titolo mondiale piloti due volte, 2010-2012, non l'avrebbe vinto Vettel ma Fernando, però ci saremmo andati vicini, perché Webber in Red Bull in tante occasioni ha portato via dei punti ad Alonso, non dico a Massa. Quindi, allora, noi non possiamo fare l'opposto del detersivo, siamo la Ferrari, dobbiamo avere due piloti veri. Questo Raikkonen è un autistico, uno straordinario, lo vedi anche negli spot che gli fanno fare, no? È meraviglioso, che dice, c'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? L'ho visto. Su un fiume, dice, cosa fai qui? Sei qui in vacanza? No. Sei qui per amore? No. Sei qui per affari? No. Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea, no? Non lo so. Questo è Kimi Raikkonen, che è uno, zero parole, molti fatti. Ma infatti è un pilota che a me fa impazzire, Kimi. Ma stiamo scherzando. Voglio dire, allora, io penso che in questa condizione la Ferrari abbia tutto l'interesse di portarsela a casa. Poi dopo, se, come io auguro ai ferraristi, Alonso rimane motivato, eccetera, avremo due macchine rosse con due piloti competitivi sulla griglia di partenza. Se io non voglia, Alonso decide che con la Ferrari, come fece Prost 30 anni fa, è impossibile pensare di vincere, allora deve cercare magari dopo un anno sabbatico una sistemazione altrove, comunque tu non rischi di presentarti alla prossima stagione con Massa e Di Resta. Quindi voglio dire, comunque la Sigiri è un'operazione geniale. Dopodiché, come per la cassazione del giudice Esposito, anche in Ferrari c'è un giudice supremo, è l'avvocato Luca Cordero Montezemolo, adesso sta in barca Capri, io lo saluto con grandissimo affetto e spero che prenda la decisione giusta, che è quella che ho illustrato io al mio amico Carlo Genta. Ma non c'è dubbio, caro Leo, che prendere Raikkonen, cioè, anche questa è una banalità, è un grandissimo pilota, quindi è un grande affare, quello che insomma la chimica tra Raikkonen e Alonso sarebbe un'altra cosa, però da quanto ho capito Raikkonen sarà o sarebbe l'alternativa di un Fernando Alonso, Leo, che vedo e leggo oggi sui giornali, come avrai visto anche tu, che altro che vacanze, si è fatto un mazzo così per tentare l'impresa impossibile, e bici, e palestra, e pesi, e simulatore. No, ma guarda Carlo, allora Fernando non si discute, io lo conosco, è uno di grandissima professionalità, ha certamente dato alla Ferrari più di quello che la macchina valeva in queste stagioni, come tu hai giustamente ricordato. Dopodiché io sono rimasto ancorato alla tradizione antica. Enzo Ferrari diceva: la macchina, la mia macchina, è comunque sempre più importante di chi la guida. Allora, la storia della Ferrari non è cominciata con Alonso, non finirà con Alonso, nemmeno con Raikkonen se tornasse veramente. L'importante è che la Ferrari si doti di tutti gli strumenti, anche umani, per essere competitiva al massimo livello, diciamo così, in ogni settore. Poi sai, questo Kimi è uno, è cool, come dicono gli anglosassoni. Sì. Se tu vedi un gran premio e lui sale sul podio, alla fine adesso fanno questa cosa, le interviste, no? Sul palco della premiazione, ogni volta che lo speaker cita Kimi c'è un boato, perché questo è uno che non sa cosa Twitter, non sa cosa Facebook, non conosce la cultura dei social network, se ne strafotte dell'universo mondo, non animerebbe mai una storia, posso fare la citazione, sì, come quella della Pellegrini e Magnini, hai capito? Cioè tu non vedrai mai Raikkonen che dice: ho mandato 125 rose rosse a una pilotessa della Porsche, e queste cose, cioè, ma voglio dire, ma la gente comune, che siamo poi tu, io e chi ascolta, tutti convocati, queste robe le percepisce, hai capito? Sì. Non se ne può più di questi personaggi che sono sempre lì che twittano. Ecco, sai qual è il difetto di Alonso? Qual è? L'ho detto anche con lui. Questa mania di twittare, poi ma ce l'hanno tutti, ma io non. Ma basta, ce l'hanno tutti. Benissimo, Raikkonen non ce l'ha e io lo considero un mito perché ci insegna a tutti noi, anche a chi non ha più 20 anni. Ma si può vivere benissimo senza Twitter, senza i social network. Fino adesso ce l'abbiamo fatta. Ma basta Carlo Genta, tutti comuni, ascolta, tutti convocati, perché deve andare a vedere i follow? Quanti followers hai? Raikkonen ha 0 followers, io veramente, è una cosa che mi riempie di una felicità, hai capito? E come no? Che tracima, io voglio un pilota della Ferrari che tutte le volte che gli chiedono come andremo in questo weekend, lui guarda anche quando ha vinto il mondiale con la Ferrari, per l'ultimo riuscirci, ti rispondeva sempre: wait and see, aspettate e vedrete. Geniale, sembra Letta. Non è esattamente Mourinho, cadrà il governo, Letta è uguale, Raikkonen, wait and see, aspettate e vedrete. Ecco, io credo che nel fondo l'appassionato non solo di automobilismo ce l'abbia una simpatia per personaggi che rifiutano le mode del presente e che sanno fare benissimo il loro mestiere, anche perché tu non lo dici, perché mi vuoi mettere in difficoltà. Oggi andiamo a Spa domani, che per il Belgio Raikkonen è secondo, è il meno lontano da Vettel nella classifica iridata, e guida la Lotus che non ha neanche i soldi per pagargli lo stipendio. Sì, e secondo me resta lì se gli va male, posso dirti, perché secondo me è il favorito numero uno a Spa. Se io chiedo a te per salutarti, Leo, che succede a Spa, mi rispondi wait and see? Sarei tentato di dirti I have no idea. I have no idea, va bene. Però diciamo che dipende molto dal meteo, che sai che lì è determinante. Credo e temo purtroppo da ferrarista che il favorito sia Vettel. C'è un pilota che si chiama Raikkonen, che però ha vinto a Spa 2004, 2005, 2007, 2009. 2008 era in testa e finì fuori per un'acquazzone all'ultimo giro, nel 2006 non ci hanno corso e dopo lui si è ritirato dalla Formula 1. Quindi, per dire, in una condizione estrema, I have no idea, wait and see, ma sarebbe molto bello se vincesse lui, non potendocela fare Alonso, perché io sono un ferrarista di rito raikkonianiano, ma soprattutto sono ferrarista. Leo, grazie come sempre. Grazie a te, la felicità che mi regali è qualche cosa che mi spingerà a gesti inconsulti. Però fisicamente la sede di Radio 24 prossimamente. Ti aspetto qui, ti aspetto molto qui volentieri. E anche l'ascoltatore che scrive Amazing Leo, per grazie, usare l'inglese. Lo saluto senz'altro. Un abbraccio, Carlo. Ciao, ciao Leo Turrini, grandissimo. Chiudo con due Roberto, uno da Torino e l'altro dalla provincia di Lucca. Partiamo dalla Toscana. Roberto... Sì, pronto. Eccomi, volevo farle una domanda, Genta, riguardo al palmarès della squadra del pregiudicato. Secondo lei fu vera gloria? Abbia le palle di non far rispondere i posteri. Grazie. Mi ripete la domanda? Il palmarès della squadra del pregiudicato fu vera gloria? Roberto da Torino. Sì, buonasera Genta. Io la chiamo perché sono un tifoso del Toro e la seguo sempre con grande attenzione e grande interesse. Apprezzo anche molte delle sue prese di posizione, come quelle durissime che ha giustissimamente nei confronti della questione del razzismo e degli UU e degli ululati. Oggi però ho sentito una cosa che... lei non vuole, è come Chiambretti, sì, cambia sì, squadra se arriva... Sì, io sono come Chiambretti, io cambiare squadra è impossibile come lei sa, però certamente questa sarebbe una cosa ignobile, io c'ero a quel derby del 2002 e ha perfettamente ragione sia il primo ascoltatore che ha telefonato quando ha detto che questa normalizzazione ci porterà a radere al suolo qualunque tipo di sentimento, qualunque tipo di emozione che noi abbiamo nei confronti della nostra squadra, sia il suo fantastico peraltro ospite di cui purtroppo non ricordo il nome, con cui ho appena terminato di parlare, Turrini. Grazie, il quale diceva che una squadra di calcio è anche cultura, è anche memoria, è anche tradizione, perché il calcio è la cosa più importante tra quelle meno importanti. Sì. Quindi non ne facciamo. È anche quella che fa più discutere. Senta Roberto, è piacevole chiacchierare con lei e io insomma rispetto in maniera totale la sua posizione, ci mancherebbe altro. Ma secondo lei perché i dirigenti del Torino hanno pensato di prendere Maresca? Glielo dico subito e la ringrazio per la domanda, perché Maresca non costa niente, perché è a parametro zero, ecco perché, questa è la risposta. Non ce n'era un altro in giro? Ma evidentemente no, adesso non sono in grado, non sono così come dire competente da poterle dire perché... quali altri centrocampisti siano a parametro zero, però certamente Maresca è caduto sul tavolo perché è a parametro zero. Se fosse costato qualcosa le garantisco nel modo più assoluto che non se ne sarebbe parlato. E in ogni caso, anche se ci pagasse lui per venire a giocare da noi, noi non lo vogliamo, e questo è il parere non solo di Chiambretti e dei tifosi VIP, ma anche, le garantisco, del 90% dei tifosi del Toro. L'importante, non lo vogliamo. L'importante è che, Roberto, al di là del singolo caso di specie, ma perché si possono registrare civilissime prese di posizione di questo tipo, è il meccanismo per cui c'è un condizionamento molto forte, ovviamente questo non è il caso suo, di Chiambretti non lo so, un po' meno, perché sappiamo quanto peso possono avere certe voci, questo meccanismo perverso del condizionamento della tifoseria nei confronti della dirigenza, se in una situazione come questa non me la prenderei con Maresca, che peraltro... accettando il trasferimento al Torino tenderebbe la mano ai tifosi granata, perché anche lui si rende conto di andare in una situazione non semplice, ma a quel punto insomma la criticabile sarebbe la dirigenza che fa questo tipo di scelta. Massimo, provincia di Vicenza. Sì, buongiorno. Dica. Allora, niente, volevo, parlando sempre di calcio mercato, sentivo parlavate di Maresca, io volevo chiedere la sua opinione sul discorso del calcio mercato del Milan. Io sono sempre stato milanista quando ero piccolo, ho seguito il Milan dei grandi campioni che tutti sappiamo, sì. E adesso mi piange un po' il cuore vedere che il Milan non riesce a prendere un giocatore come Onda. Certo, ma sa cosa ci vuole per fare il mercato? I soldi. Sì, il Milan non li ha evidentemente, arriveranno probabilmente quei 30 dalla Champions League, sì. E poi ci sarà qualcosa sul mercato, 6 giorni sono sufficienti a Galliani per fare qualcosa. Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani alle 2 qui, ciao. Sono convocato anch'io e vengo in ritiro per forza.